La luce del mattino. Meccana numero 11 di 11 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per la luce del mattino. Per la notte quando si addensa. Il tuo Signore non ti ha abbandonato e non ti disprezza. E per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto. Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio? Non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida? Non ti ha trovato povero e ti ha arricchito? Dunque non opprimere l'orfano. Non respingere il mendicante. E proclama la grazia del tuo Signore.